Ciao Elio, è un piacere averti qui sui 103.1, come stai? Ciao a te, sto abbastanza bene, devo dire. Sto molto meglio che nell'ultimo periodo, ci sono tutta una serie di cose che stanno ripartendo e sono ripartite nella mia vita e sono piuttosto contento, ti dirò. Grazie per il pensiero. E sei in rappresentanza di tutti i pinguini tattici nucleari che comunque salutiamo. Stanno bene anche loro? Stanno tutti molto bene. Molto molto bene. Abbiamo appena ascoltato il vostro nuovo singolo, La storia infinita. Diciamo che possiamo definirlo è un pezzo di fine estate. Canzone nata per caso durante il lockdown, giusto? Sì, per caso proprio no. Però nata durante il lockdown da stimoli anche un po' casuali. Per esempio la melodia iniziale, una parte del riff e cose sono nate da alcune canzoni che Riccardo ha prodotto al volo, proprio interagendo su Instagram con la nostra fanbase. È nata, come hai detto tu, sì, durante la quarantena, e ha avuto una fase iniziale di lavoro a distanza piuttosto serrato, che poi si è concluso non appena si è potuto concluderlo negli studi di Sony a Milano. Come dicevi tu, è un pezzo che parla, un pezzo di fine estate, sia nel sapore sia anche poi nei temi. Parla un po' di questa mitologica estate che per ciascuno è un po' diversa, no? Per qualcuno può essere l'estate in cui ci si innamora, per qualcuno può essere l'estate in cui si fa una grandissima esperienza, ok? Però quell'estate che poi diventa il simbolo di ogni estate fantastica quando si ripensa indietro alla propria vita. Certo, poi sicuramente è stata anche un po' un'estate anomala rispetto a tutte le altre, certo. Però... Certo, sicuramente sì. Questa in particolare lo è stato, anche per noi, anche per il nostro lavoro, per quello che facciamo. Non abbiamo fatto la cosa che facciamo da ormai 5 anni a questa parte, cioè andare in giro per l'Italia e salire sui palchi. L'abbiamo fatto solamente in contesti molto controllati e non in occasione di concerti pubblici, ma di esibizioni per realtà radiofoniche, televisive, ma cose molto piccole. Ci è mancato molto fare concerti e ci mancherà ancora per un po'. Immagino. E infatti anche perché per voi, io vi seguo in realtà da un po' di anni, però soprattutto quest'anno per voi è stato un anno molto importante, quindi diciamo che è stato un 2020 partito col botto, terzo posto a Sanremo, il successo di Ridere, di tante vostre canzoni, dischi d'oro, dischi di platino, però poi appunto si è un po' bloccato tutto causa questa situazione, quindi volevo un po' sapere come avete vissuto tutto questo. È stato strano, poi considera, noi siamo pure di Bergamo. Anch'io. Vedo che allora ne sai, sì. Esattamente. Nel senso che ci siamo ritrovati proprio in mezzo all'occhio del ciclone di questa questione. E quindi abbiamo fin dall'inizio capito quanto fosse critico e complicato, quanto fosse difficile riuscire ad affrontare la cosa senza farsi mangiare da mostri irrazionali, follie, cose del genere. È stato complicato per i primi mesi, poi con il tempo siamo riusciti a digerire e a gestire la cosa in modo un po' più adulto. Chiaramente, come hai detto tu, per noi è stata una botta veramente improvvisa, avevamo una grandissima accelerazione, proprio anche nei ritmi della nostra vita, no? Dopo i primi mesi sanremesi e tantissima promozione che avevamo fatto, e eravamo a fare le prove nei palazzetti per la prima volta, avremmo suonato nei palazzetti, e al primo giorno di prove a sera abbiamo saputo che alcuni eventi sarebbero stati annullati, che quindi tutto quanto il nostro tour, che erano una decina di date, andava rimandato. Questa cosa è stata una botta molto grossa, ci siamo ritrovati a casa immobili dopo che siamo stati per qualche settimana in giro per l'Italia alla velocità massima che avevamo mai raggiunto. Quindi metabolizzarlo non è stato per niente semplice. Per fortuna noi ci vogliamo bene, ci sentiamo e ci spalleggiamo, e a un certo punto siamo riusciti a incanalare questa cosa in energie creative, facendo appunto questo pezzo nuovo, anche altre cosine, o banalmente riaprendoci ad altre cose ciascuno nella sua vita. Quindi... Anche ad esempio l'idea di far uscire il videoclip di Ridere in un periodo in cui magari appunto Ridere, certo, non era proprio semplice, però anche l'idea del videoclip uscito poi su YouTube era molto molto bella. Ti ringrazio. Questo, per chi non lo sapesse, fra i nostri numerosi, sì, ascoltatori, è un videoclip fatto con i contributi dei nostri fan, contributi girati in casa durante la quarantena, ed è un lunghissimo montaggio. Ne avevamo ricevuti quasi tipo 3500, una cosa del genere, e ne sono stati selezionati un centinaio o poco più, che poi sono state montate una dopo l'altra. Fare questa cosa ci è servito anche per continuare a essere comunicativi e continuare a cercare di spargere almeno un lume di positività anche in quel periodo in cui la positività era difficile da trovare, quantomeno. E a proposito di questo, mi viene anche da chiederti, voi avete fatto uscire un pezzo che si chiama Bergamo, poi è successo tutto quello che è successo, questo brano adesso per voi ha anche un significato, diciamo, diverso, più profondo forse? Non tanto per noi quanto per chi ci sta attorno, cioè noi siamo bergamaschi, amiamo molto la nostra terra, la nostra città, nonostante le sue contraddizioni e tutte le sue problematiche che ogni tanto vengono fuori in modalità diverse. Questa città ha preso Bergamo a un certo punto e ne ha fatto uno degli inni della rinascita, del tentativo di fare gruppo, di fare comunità durante questo periodo così drastico. Quindi non è tanto in noi che è cambiata la percezione di quel brano, quanto in chi ci stava attorno. L'abbiamo vista condivisa tantissime volte in quel periodo da gente bergamasca o meno, insieme ad altre canzoni anche, che no, chiaramente, però è stato uno dei simboli e ci è piaciuto molto, ecco. Sì, deve essere una cosa effettivamente molto gratificante. Già. E quindi in realtà stiamo un po' parlando di passato, ma in qualche modo anche di futuro, quello che potrà succedere dopo, quindi arriviamo a parlare di questo pomeriggio che sarai qui a Bologna nell'ambito appunto di Cortile in Comune, dove parteciperai alla conversazione sul futuro co-curate e condotte da Bebo. Quindi per te, insomma, per voi pinguini, cosa rappresenta il futuro e che progetti avete per il vostro futuro? Ah beh, il futuro è una montagna da scalare, no? Sarò molto molto vago, perché in realtà io sono una persona con pochissime certezze sia sul presente che sul futuro. Anche Bebo sarà divertente, sarà molto divertente la conversazione che faremo, perché lui è una persona molto più risolutiva di quanto sono io sono un problematizzatore, quindi sarà davvero divertente. Il nostro futuro come pinguini è cercare di continuare a suonare il più possibile e di portare della musica che sia fresca, in qualche modo nuova, in un panorama che è quello della musica commerciale italiana, che è quello dove ormai siamo entrati anche abbastanza di diritto, che puzza un po' di stantio da un po' di anni. È un po' di tempo che non ci sono cose che raccontano una generazione un pochino più appunto vicina alla mia e alla nostra, e quindi il nostro grande auspicio per il futuro è poter continuare a essere nella posizione dove siamo e a raccontare storie che parlino della gente, di gente giovane, di gente che ha delle visioni un po' diverse da quelle che sono quelle, come dire, della grande cultura massificatrice italiana. Questo è un po' il nostro grande auspicio. Poi vorremmo tornare a suonare e finalmente dare corpo a questo tour nei palazzetti. Non appena sarà possibile, vorremmo ritornare a dare davvero un corpo fisico alla nostra musica, che è la cosa per cui noi sei viviamo tutti quanti: salire su un palco e tirare fuori tutta l'energia possibile suonando. E noi vi facciamo da Radio Città Fucico questo in bocca al lupo, speriamo si possa fare il più presto possibile. Rinnoviamo l'invito a questo pomeriggio appunto per questa rassegna con Bebo, e sono molto curiosa della chiacchierata che ci sarà tra voi due con appunto queste premesse. Grazie mille. Grazie a te.